aveva, ha detto, oh, subito nel vara. Oh, ma tu se guardi qua là vicino, tutte le facce, sono tutti imbuffati. E tutti con le spaccature, anche dentro, sicuramente vi passa leva. Chi si danno il vale, invece vanno a pisare di rintorno, con il vale tutto un mallo. E allora, chi ci è? Invece prima sabbia cattiva ci metti, grazia prima. Sabbia cattiva ci metti, tramette, che passava in una cattina. E poi quando facevamo dei passi, mi chicciava per la cattina, e in mezzo alla sabbia, tramette. Ma io gli intonaci che ho sempre fatto, li ho fatti sempre all'antica. Prima lo spruzzo, con sabbia e cimento e cassina, mezzo grasso fello. Con la sabbia lavata e da grossa. E tutto fatto ripruzzo. Poi, magari lì, che dopo mi viene a burigarci. All'indomanda comunque, ma con Giorgio entrava. Ehi, già lo qui via. Ma questa cattina la va, cattina grazia, cattina chi sei, cattina da chi, chi imbazzava con lui. Chi sa chi fa gli anacci in scuola, già ci sono andato parecchie volte a fare qualche viaggio, a portarla da Sarria, alle punti, già ne ho carrato, ma di chi sa non ne va di più, neanche Grassello, di chi ci mangia anche là. Guarda che un bel, non ne hanno più, non ne trattano più. Io l'avevo trovata, sarà un 5 anni fa. Non aveva, ma si visò durante il guidone, venivano quattro sequisati, ma sono tutti cribati. Ti ribongo, ti do una buca a manna, ti ribongo io. La gente mi ha messo in città, in campagna, pure a cazzina. La gente è andata a vedere una testa, ma cosa ha voluto? Non mi ha accusato in cui l'ha voluto. E mi ha chiamato tutto, mi ha chiamato tutto il muro pure in campagna, tutta la facciata, tutta la casa, pure la facciata, la rete, sopra, all'esterno, tutti i muretti. Cade la città bianco bianco e poi chi sa di si fretta, un fritto. E solo che mi sa che non ne so poi né più. No, io la conoscita che faceva solo la buona me la Maria Unigra, via Valdetta, ieri. Cioè, io infatti la prima volta che vado a lavorare in una ditta, quel lavoro ci ho fatto con Maria Unigra. E però porro della cattiva ieri, catta. Lui ha messo la carra fredda, legna, cazzo, a voi quando la fattina fate nella falafa, uno si chiamava Gonca, si chiamava, poveretto, tutto bruciato in faccia era, cazzo, le mani, tutto bruciato era. Mi si faceva la testa che era un macchinario, era, no? E per i bossetti, a me mi si faceva la 30 i bossetti, ma con l'istante chi da chi si picchia per mettere i bossetti, no? Però ho messo su per poco a poco, si attaccava, si bruciava pure la faccia, grazia, oia. E era Maria Unica solo con quella partita di Sassari. Da poi Maria Unica ha cominciato a diminuire, è subentrato un altro, non mi ammetto come si chiamava. E l'anno venne a Macuni, infatti, solo a siniscola, però è solo di chissà i sacchetti, basta, in preda non c'è più, Anzi, ora, a Zecchetti, e mi aveva detto Luigi Vulcano, dice chi provava a domandare a coso, uno che faceva viaggi a Ivi a coso, a siniscola, si riusciva a buccarne a chi poco. Ma non ha inteso più nulla, per cui non ha già, che a me mi interessava chi sa va all'albero, va di fatto all'albero, capito? A chiappare la preda, io li passava da voi, li bacchinavo tutto il gioco dell'albero, bacchi li fa di avere, a chi sa che i sacchetti, non li fa di niente, tutta la borsa, per cui come te non li tocchi, capito? Mentre chi da bruciava male tutti. si farei c'è tu sotto il coso di la buccia di lato del tronco e l'altro te la ammazzava già lo so, non abbassavo pure io, ora sono con Badane senza abbassarla, e l'albero in campagna, e l'albero della figa, della frutta, voglio la più trattata, e chi viene, ma è no che non la lasci più, si farà la buttibuccia, se lo domanda a Giccio, ti dici, a te cosa è, non la conosce nemmeno che c'è un buccino che vede la maglia lì. Questo cosa è? No, l'unica ce l'aveva tanto tempo fa, tira già alle punti e s'arria, ma poi s'arria dice che non finirà più. Ma no, non si acciappa, no, assolutamente no, non si acciappa, ripeto, manca cosa va a siniscola, perché a siniscola magari è vero vorro, però mi pare che i liburi non li dati di più di questa cosa, chi hanno direttamente dal vorro si va direttamente al frattoio e l'imbattere la mezza direttamente e ci sacchetti direttamente. Commette un cimento, papà, commette un cimento, puoi immaginarsi che è presa non acciappi più. E poi chi sei i sacchetti, se no in preda non acciappi più. E chi se la vuole? Perché io li voglio pure la cisterna che fa via a noi. Capita, la buriami da voi, che si viene la patepa, si buoniamo la presa di ragazzina e ammazziamo tutti gli animali e si buonia lì pure, grazie a. E io lì in campagna, la città di campagna, con le babiovana. Ma non mi fa niente, lo so già. Se tu domandi ai giovani oggi, dici che soffrono, che cominciano a fare brabicamo, non sa nemmeno cosa leggere i segni. Più come se prima, oramai. Non ne travaglia più nessuno e non ne fa di più. Per carità, certo. La roba buona non la fatene, la montessa fatene, che non dura nulla. Guarda che si torna così, ma vale a dire, è roba veloce, va in presa, ma no, è come se chi non hai fatto, a chi? E io sono sicuro che tra tanti anni, vedi, ci torna a cielo, ci si scorsicate, che si va a finire come a te. E come sta ogni cosa, grazie. Dici chissà fabbrica tedesca per le lavatrici, devi partire le lavatrici dura per due o tre mesi, la poi la devi dare i lampari, a che se ho bisogno lo riuscirà ad andare avanti, così che partire queste cose, ha bisogno di una zancata a muro, e così è tutte le cose oggi, perché i fabbiani sono quelli, roba che lo segui, la basta un mese dura, poi la devi e c'è di comprare nuova che a comprare non vale la pena. A proposito della patrice, in casa mia cognata non se l'aveva comprata, la fai tu come te la prendo il cestello, cazzo tutto in plastica, ma dice cazzo, ma questa è questa la patrice, c'è tutto in plastica a Trentino, chi c'è secondo cosa fa la lavaglia, prende la gente di Cuba che gli dà un bene. Allora mi si, ci lo corrido io e si la lampi in muro, e infatti, e come è successo, ma ce la giudici, si vede, mi pare manco 3 anni l'ha fatto, chi se la patrice, certo? Tutto va bene così, grazie a tutto. Sì, diciamo, cercare di risparmiare più che possibile, ma la roba non dura più. Ma tu pigli un televisore, eh? Un televisore moderno. Ci si guarda, ti butta un tecnico, ti prendi via a cortare e a comprarti la nuva. E anche non lo so, però che lo va così di romarice di me nei buchi, non l'ha comparato da Conforama. Cazzo, dopo di un mese non funzionava più il televisore, che domani mi ha schermo piatto. la terra di Viradita, allora ne manda giù. Rudenica, Rudenico, diceva me lo devo portare via perché lo devo fare lavorare. Cazzo, lo dalle visioni che ho parato ne manco un mese. Ma bravo! No, io ultimamente ci ha dimorato vicino a 32, da io, Mattessi, da Goforama, ma ne ha dimorato due, una bambina e una bambina figliuta, che era in offerta, LG, però ci sono 2 anni, grazie a Dio c'è ancora, è perfetta, perfetta, non ha dispettato ancora nulla, Ma poi venne giù una sciarpa, che ha giubagata, se il zetto, i primi sono usciti, se il zetto rotti, io la giubagata. E da Bruni, che ha fatto la pila, lo manzano, da ricevere il manzano, per poi della pila, che è stato ricevuto, però, bisogna vedere cose che non hanno, dopo non si può il canale Giucci, tocca a girarti un grabbo. Infatti è memorizzata in Germania, è memorizzata per poter acciappare i canali. È vero, che canale non si riesce a acciapparla, cioè, è di base per i grazie, puoi immaginare. Pure che si va giù in salone e la memorizzata in Germania, se non pigliava manco un canale, e chi ce l'è nuovo, no? A viaggio più di 15 anni sta televisore, chi ci aveva abbigliato da Bruni quando era lì punti. E cazzo, ma ci vedi, l'epigliera l'ha sintonizzato in Germania e ci vedi tutto quanto. Ma è un po' di niente, dico, cazzo di 30 anni l'ha fatto il televisore come tipo come ti viaggio per pigliarsi la schermo piatto. E che scemo dopo, quando si passa a me la parla già figlia. Vabbè, no, io credo che già siamo piatti, tutti altri qua giù, tutti, villaggio 4 in casa, tutti e 4 sono piatti. La prima che aveva abbigliato da Ventupolice e Sansuri, però chi stanno a fare un d'accordo incorporato, non via. Chi c'ha abbigliato in campagna, villaggio? Va per un d'accordo mio minore pure all'esterno, capito? Mentre invece chi ci verrà incorporato, per cui quando ha giubilato qui da che in campagna magari non venire ancora quello d'accordo incorporato, capito? Però funziona di lei una meraviglia, ha tirato un bel danni, Ma poi fino a giù la Radio Marelli, un bel danni di chi si pesci, cazza, e vabbè funziona lei un bombone, grazie. Io sto funzionando sempre bene. Per cui, nati due, una in campagna e una a Ginocchio, che si vince così, che l'ha già attaccata allo coso, alla, come si chiama, a far culo, l'ha già attaccata allo stereo e allo coso, allo DVD, capito? Robe Marilli, capito, ti puoi immaginare, ma un bel danno in me, se la bella funziona di un gioiello. A me sarà un 8 mesi fa, che c'è un minore di cucina, mi si è bruciata, dice cazzo di onda, la parte 360 euro, ma per gli amici lo schermo piatto. Ma gli stava a dare un fiducio, a chi a posto per lo vedano, ma non mi piaceva, erano i vici. Sono andato a dare un fiducio, a sai che hanno venuto tutti in fila. Mi ha già baitato, mi ha già pigliato, l'ha già provato e gli dà nuovo di negozio, 15 euro. Dice che ho per le fuga, capito? Chiaro che le ho per le fuga, ma chiamato i giochi moderni. Ma cos'è il buono queste televisioni e schermo piatti, capito? Di grazia. Costa una cazzata, ma cazza. Se la giù, lui di 32, i nuovi, uno in cucina, uno in questa cameretta. E due sono 26, uno in sala e uno in camera mia, capito? Si può immaginare, ma su tutto qua che non piatto più, va giù, che dà che è attaccato all'UDVD, ma dice Radio Marille, me la dice, vabbè, che la tocca a Chiesa. Ma non la sento quasi mai, intanto magari la sento, ma parlo sta a fare cagli un po', ma non attendo quasi mai. A che manco di così attendo più, perché prima ne cambiavano in tre, registrando, vena, maizzese, baccarizzai, pure lì ci bisogna che si raccada là. E vuol dirmi, ne è rimasto uno, a te la flagia da mio figlio, da se va via così, a cazzo non lo trattavo mai, a cazzo non lo trattavo mai, il flagia da mio figlio, da se va, e lei già se lo guarda in cameretta. Ce l'ho solo, ma non ce l'ho solo, quello del salone che è grave, ma non lo tratto mai, una volta ogni amore di babba, quando mi dà di qualche film, mi figliura, che mi rilassa, mi dice, mio, ho portato questo film, te lo porto, portalo, me lo guardo, però, da poi non lo tratto più. Allora mi pongo a registrare, a fare una cosa, ma le abbiamo la telecamera, ma te sì, beh, la più trattata, la volta a mannazzare, you know. E una volta quando sono andata alla svinala, boh, basta, sempre presa la cattura. Sì, si dà giù due io, una manna e una minore, la giura professionale, pure, grazie a io, VHSC, che sta? Hai qua il nord e meno, VHS 800 va a giro. Cazzo, chissà, è una cannonata, cazzo, si è abbigliata da cosa, da... Non ti chiamavo che ci abbia fallito, e che in pedranita, quando te lo macchiavano in grosso, come ti chiamava questo? Uno, no, non me la metto, mi da libera, catta, 3,5 milioni l'abbiamo pagato, allora allora grazie. Ma ci sono parecchio questa, perché allora è un periodo che andava in gita con mia rogu, però ci portava pure a coso, in Francia, ti puoi immaginare, in Spagna, che andava in gita, tutta la sacchina. Ah, beh, lì se l'aveva portato a posto, ha tirato troppo manna, e certo, pensava, e certo, non aveva questa cosa a conti, già pensava. Ah, poi la bemuda a Marcattone, allora era un Marcattone, e chi mi ha visto la cucciuzio, fare la carica. Una Salsunic moderna, minore, però bella, cazzo. Me la giubilata, me la giubilata un mese e la madre c'ha l'assuccio. Non le tratto più di questa cosa, non le tratto più. Per cui sono con una batti, se ogni tanto l'attendo, li posso funzionare, fanno il caricato di tutto. Però sono per lui, tu vedi che c'è un professore da giro, la tua chiesa 800, non demende, gatta, è una cannonata, ma un zoom non finisce più, allora ma c'è della vicina la foto a vicino, ma che dice Sassuni, manca vicino, a guida. Ma non il tratto più, non il tratto più, grazie. La macchina fotografica battesse, ne aveva una, attimi la metà musica per invece, di c'è stata, biglia me ne ha regalato un'altra roba, l'amico. Ma io sono trattato di volti e batto, la trattata, mia, è trattata la carta, la roba nuova. Guardi, ma che quasi ma cattese, puoi immaginare. Oh, no, ormai, grazie a... No, fa me, dai, ma va un attimo più giovane, andare bene, però va, no. Oh, se pare che poi se c'è la macchina fotografica, va, a fotografia. Ma cattesino, Oh, la macchina fotografica, c'era 20 anni, 30 nel soffalco, 30 la carta, che hanno affittato. E dice delle camere che c'è di anni giù, allora tu venirani, sarà un mezzo fa a Portobello, una giarata, ma di marca mi grande con l'assuccio, con le valigette, con il binocolo allungabile, burche contro burche, 15 euro. Oggi questo io saranno comparate, ma io non me ne ho preso anche, chi sa faceva tanto un microfono, minoretta, da quanto funzionava, da quando voglio parlarmi il filmino di la dinara, attacca lo televisore, ci vede chiaro, ma benissimo, ed è qua del microfono, questi minoretta, apre lo sportellino, adesso è forte. però cosa c'è tu? Mi ha giubilato a Bagosa, ha fatto la TV. Dice di anni giù, ma di marca, mi non so quanto ce n'era, non so se ce ne sono due, se andato tu, chi sa che ti avevo baciato, e mi pare venire giù in vetrina, una mi pare della Nikon, con l'astuccio, cioè i proiettori che puoi attaccare, un casino di cose, e poi scritto, ne baciato 150, poi c'è di Luigi 2, 15 euro. A chi magari dice magari se ne sono intraccati oppure magari l'hai venduta tanto ma prendersi magari una più moderna eccetera, capito? No, io non li do a nessuno, no, no, assolutamente. Io una volta la giubbuccia nell'occasione, la giubbuccia a chi me la porta la Bolì un conosco, capito? Dice la Bolì mi ce la vuoi dare, vabbè sì, prova qui. Però se ho mirato che ci vedi che io non ne buongo da manco, ha detto no. E dice allora, lascia di chi, l'ho domanda di male. E pagata, funziona perfettamente. In altri forse possono schiacciarlo, ma io non faccio la scorta. Perché in altri io ci voglio figli, registrare sui CD e recuperare tutti i nastri che abbiamo registrati, i filmini che ha già fatto, capito? Poi la mia intende funziona con un microfono solo oppure un microfono separatamente, capito? Da lontano, un microfono senza filo, la vuoi trattare, capito? Che è professionale, questo che vende, fa di tutto, di tutto, guardi, c'ha tante dici cose, non finisce più. Ma quello lì, è una delle cose, lui, ammazzato un capo, e penso che il computer, devo immaginare, se ne pongo, già che non uso manco il computer, devo immaginare che io uso queste cose, vai, la carichiva, domani, vuol dire che qualcuno sarà rapita. Una di quelle che c'era in vetrina c'aveva anche il microfono, come stai dicendo tu, chi ci promette che si canto canta mi ha rotto la televisione, ma non così, c'era abbinato anche quel microfono e cazzo ti sono così sani, quindi dirò la città paura arrabbio e ma che cosa ti fa, cazzo non trattichi se ti bruciò a raso. E allora no, me l'ha giubilato. Ma adesso con la tecnologia che c'è, non finiamo manco più bisogno di pigliare la telecamera, anche con il telefonino, allora si vede bene lo stesso, con il telefonino mio, riprendi, fai il filmino e poi a taccrupire me la fai dare un televisore, ecco la telecamera. Dico, pigliamo anche la fotografia di registri, tutti i suoi registri, c'è da Dio, la Nikon, la moderna, pigliala abbassata, me l'ha regalata, ti puoi immaginare, fa di tutto il sassabuno, faccio il cavo, attacca la televisione e te la vedi in mano, la vuoi attaccare il computer, fa di tutto, tutto, buono, ero papà giovane, non parla a me ormai, capito? Ormai ai giovani non davvero, a me non, però mi piace averla, mi è sempre chiedito, intanto non ha già sai cosa fare, la capo, piglio, mi catto anche fotografia, ma poi magari attacca la televisione, me la vedo alla televisione che per un quadro più manno, esce più bene, eccetera, eccetera. Vedi, filmini così, tutta la televisione, ma vai giù, ma raramente però no. La gatta un po' che niente, capito? Anzi, quasi niente, anche se prima la televisione, la vai giù, però no, una sa cosa, grazie a tutto, ma è passata questa gana, ma è passata, abbiamo un proiettore una volta, abbiamo la cina presa prima, la batteria, prima che era venuto a trovare la buon'anima. Ragazzi, è presa, poi mi avevo abbigliato da fare, io mi faccio passare il proiettore al superotto e mi fa dire i film, oppure andavo lì via in affitto dalle suore via via Carraber, via Carraberto, mi visare i bimbi, petto, la casa a cocco, anche se a cocco la via venduta, chissà, chi si proiettore, l'amplificatore con un quadro, la via tutto l'altro, grazie, ci sono gente, io, ma sai che sta girampando, non hai idea. E la gina presa per la via Buruio, che provvisa del cinema, minorita, mi pare che da un 40 centimetri di lunghezza, con due rotelline, messa con la pellicola, e la puntava in un muro, in casa di mamma. E sapete a farmi i filmini, signora la buona di Marchetto, allora quanto me ne date a filmini, i pornografici. E mi faccio la puttana io quella, poi me l'ho portata a sinistra, che non mi ha compiuto fino a fatto, magari se la ho regalata o gittata. Era per lei, ma lui era nei altri tempi, Gio Mario, lui, e poi anche nel mio telefonino, se voglio, c'è anche il computer, ma non l'ho mai provato, cioè l'ho provato, non è mai mangiato tutto il credito. Al computer? Sì, dal telefonino. Ah, no, che cazzo. A me pure è successo, A me pure è successo così. Guarda. E infatti, mi pare che ancora proprio del passato che me la viene pigliato nuovo da buon. Sì, infatti due volte mi hanno mangiato le denà, ma adesso a bisammini così mi ci toccato sul dato, ci butto in busciacca e mi hanno mangiato tanto fritto, due volte. Vabbè, non mi fosse più tu a me. Vabbè, me l'ha già comprato nuovo. Me l'ha già comprato. Allora, qui ci va già va, è più tranquillo, è perfetto. E grazie, uia. Uia. Ma. Cos'è che non ho già avuto io? Ah, a me queste cose via via, no? Poi che mi andavo in giro. No. Io, ma pensavo a fare i filmini quando andavo in gita a me. Tutto registrava, grazie a tutto, a un andavo registrava tutto, e grazie ancora non sono registrati. Faccio lì in altri, cambio voglio, piglio io, lo bongo, lo dico così, me lo vecchio la televisione, tutto faccio, tutto, non manca tutto quello che ho registrato, faccio, ti puoi immaginare. Per cui, no, ma qui sono faccio più ormai, cosa me la vedo a fare? Oh. Cacca di nuda gioco, baccalizzare, mi pare che ne saranno un 130 all'altro, tutti registrati, film la batte all'altro, all'estero, che andava all'estero. Oh, io che non vedo là più là, boh, anzi, era perché mi pigliami lo DVD che registra da un astro a un DVD. Ah, tu che mi ha costato bene, così che inizia a cambiare il miro, la buona, me lo fa che va. No, quando voglio prendermi la cassetta, faccio la cassetta che mi va da minore, mi lo pongo la cassetta manna e mi lo vengo a stessa, capito? E io lo stesso, cassetta della tua via, e che me l'avevi dato, filmimi. Guardi, mi sono virato il cazzo, si immagino una pagina che avevo bisogno della pratica. Poi avevo 4-5 cassoni in macchina, sono andato da Mario Pala. E la città di voi sui cassetti di film, tutti misciati giù. No, io cosa ne posso, no, giù una gamma là in casa. E poi da Calimero, chi ci fa la pizzeria e no, che via Magella. La giù, arrivo giù, e dammi lì a me la baggio e un attacco quando sono in casa, che il film è stato pigliato, lì non si gioca la panna la mamma, e ce l'ha pigliato tutti i vecchi, mi la giù regalato, tanto se non si rilampa. Beh, stando così, non fai niente, mi sa. No, io... e a Lampazzi non si lampo niente, è tutto la base, il villaggio in vetrina, alcuni altri registrati in vetrina, villaggio, state ben assentati, di lunga tipo, per cui va giù l'otto e vince di super otto, e per cui non va giù il riduttore e buono, no. Se non ha se minoreggio, se non il riduttore e l'altro minoreggio, e un po' che lo DVD e me lo trasforma in normale, capito? Ma è lui, cioè io ho DVD, ne ho film, ma cosa? Quando la Dio ha visto, pure se me lo torna a bella, me lo puoi sapere da fra 5 anni, non so, tanto come ti vengono convinto, mi si fa subito anche so che la Dio ha visto. E così è graziale. Andiamo semu. Ma poi con tutte le tecnologie che visava, non si veniva a nulla il secondo. Fai tutti quei telefonini, non hai di che c'è il telefonino vale fatto nuovo. Cazzo, non so cosa l'hanno aggiunta il suo telefonino che poi va, tutto poi va con questi telefoni. Dunque, da telecamera, da macchine fotografiche, io con il telefonino, ma te sa già tante fotografie in volto, va? Sì, vabbè, ma c'è, non si piace, ma allora, bisogna dei giovani, è troppo fedele, di me. Allora, giudici chi se ne è fatta l'altro momento. Aspetta, ma rimane in barriera, mi faccio vedere, che fa di tutto qua, di tutto, è meglio del colpito muro. Mira, la che è passata la televisione, la faccio vedere, al telegiornale, mi sembra che era o Esperte, i continenti, non mi ricordo che città è. Catane Busto, i televisori a schermo piatto a un euro, la gente l'hanno ripigliata, correndo il mondo a far rendere a tutti gli elettrodomestici, la patrice, a un euro. Cato, chi ti vuole televisore in mano, non la mollato, non è parlato da un'altra catastra, non è parlato in un'altra, un'altra catastra di televisore più minore, già schermo piatto. Infatti poi sono intervenuta la polizia, l'ha fatta salvata, e tutto pure a tutti, cazzo l'ha pigliato, l'ha pigliato, a chi ha le cazzicate, un po' con due femmine, non c'è niente che vira, li passavano in alto. Già la giudizio, grazie a Dio. Chi sta fra con il televisore in un'altra cazzacca? Però non l'ha mollato, sto fatto. La Dio ha tolto un braccio, tra un braccio. Magari che l'ha boccato perché si è fatto la cappa a terra in mezzo alla televisione. Già la giudizio, già. Che ci marebbe di niente, mo c'è fammine, che c'è. Boh, ma perché mai, cazzo, ne fatto questa cosa? Se forse di fame, ma ci ho preso il televisore un euro, una la patrice un euro, ma non l'hai visto, io se lo faccio di no, sono qui davanti alla serrata, un euro, cosa abbiamo con un euro, nulla. Un caffè, gira gira, infatti, ho visto quel particolare, a Catania era a Catania, che sono anni fa, cioè, certo, lì c'è un bel niente, certo, infatti se la parrende va a pigliare, certo. Un paio di capra da soccorso sarei buttato, a chi la gente ti castigava, ti camminava e la taruga, cazzo non l'hai visto, cazzo ha giudito, e chi mi mette pure il tuo euro, cazzo la pipì, non l'hai visto, che ti pigliava le televisore e li lanciava alla saliente, si dava mezzo la montata. Ehi, che non ti sei fasciato però, stai fasciando bene per tu, hai visto, non stai usando quali fatti però, certo, non andare pure, hanno fatto un buon danno, un bel. e dalla giuvizia, a chi gli deve fare così? Un cannacco, una passerella, tu mi passa gli via un auto, tu cosa vuoi, una lavatrice, allora gli dai anche il suo cannacco. Andate chi vi piglia di chi cavo, piglia di la borsa di fila al gaccia. Cazzo, poi c'era tutto l'imbaro, tutto fatto a cantasse, gli altri si sono cuttato loro, c'erano mondo, tutta la Sicilia mia, si lo sa così di burù, dalla campagna, cazzo. Ma tutto c'era, non solo televisori, c'era tutto vera, radio, tutto, c'era tutto vera. La carità, ma io penso che era la carità, era fallito, allora aspetta che fosse via Samburita, ero che via, e lì sì che ha fatto, che Samburita ha fatto, ma che cosa andava a cavallo, no? No, ha fatto su io la legge qui tra due o tre negozi, non so come abbia delle tasse, ancora più di tutta un'isola, quando danno allo Stato, la merce. E una con due o tre negozi mi sembra che hanno chiuso. Ma quello non l'ho seguito, Se si ci sa, se immaginate che hanno pagato le tasse. Ha di fatto messo su via, ma forse metti ancora. Dall'86 mi pare che non avevano versato i tassi, chi sa niente. Dall'86 mi lamento, dall'86, figurati, sono in 2013. Non mi sembrano mai in chiesa, ma anche perché sono qui su successo, in quel che sono supermercati e basta, capito? Chi se gliela gentile, la giudicio è gentile, ma chi succede se tu non la gentile? Ma posso immaginare, se il padre è così, grazie a... allora è così, allora via, tanto, non pago niente, lui dice che, poi c'è di dirsi tutto, e capi buono, più buono a voi. Allora, chi ci ha detto, cazzo, tu vale poco di Saurino, chi parli di lavoro? Tutto Palermo e tutta la Sicilia vera ieri. Cazzo, so che c'erano tutti gli elettrodomestici, quanto gli elettrodomestici che prendevi era un euro. Una lavatrice, una radio, chi ci vivi tu? Tutto a un euro. Grazie. Bisogna guardare a incontrare sempre se i satteri succede una cosa del genere. Beh, chi no che non li fate? Sì, magari, se li fate di no che ne vengono le burro da gaglia, le da tutta la sardina le imbatte nei nomi. Certo, qua non le fanno una cosa del genere. Quando fanno scorti così, del 70 dell'80%, secondo che il negozio è già la ratti la via, pure i nomi, però se fai quei sconti 70-80%, si ha preso un negozio di marca, che ha già rubato i nomi la via, però a Pugna Unito non l'ha mai visto. No, ma che io, Canda di bravo supervisore che va in cucina tra i due pollici e non me la metto quant'era, ma era oltre 600 rotti era. E così che da euronici, sì, euronici era. Catta e altro bisogna andare a chi ci mangiava, a chi la sera siamo andati non avevamo dato di girare per parentesi, domani mattina alle 6:30 era chi già grazie a sai che c'è niente vera, l'usesso era io però fino a poco c'è previsto la carta ci fate bene la carta però quella la fila già. Perché quando sono gli ultimi pezzi di certi articoli che da poi magari non ne vadono più, allora ti rimarrà a te cani di cucina, non vadono pure da Conforama, a me che bisogna televisori 32 pollici da Conforama, quando l'altro giorno l'ho visto mi ha detto pure la e tabata in mezzo, 262 euro costa, cazzo era un televisore che costava quasi 730 euro. perché quando rimangono pochi articoli, allora gli vede gli nozzisci, allora passano un bel briscio. Hai detto tra un poco, chi si vede che ha sulla strada, sono delle carenze. Ma è così, perché invece ne altri nuovi, di più nuovi, più attrezzati, capito? E della giudizia pure ci sta marcato, vera. Per cui no. E quindi io se l'ha pigliato uno. E invece da voi lo ribiazia nei colori. Ah, sì, 42 pollici era. 42 pollici. L'avevo piazzato ed era in offerta a me, fino a ci sta mercato. Ho piazzato un po' di colori svegati, non me la metto così che non andava bene. Ho pigliato, siamo andati e ce l'avevamo sdorrati. E avevo pigliato da 32, dici che un modello, ma è attrezzato il colore verde, non è vero. E poi potessi girare da satellitare e più digitale, capito? E senza buoni barabbi, senza niente, vera buru satellitare, vera, si può immaginare. E per cui l'avevo messo in base, era l'attorrato, 20 euro buro l'attorrato. Chi giorno per giorno ne sono sempre vincenni più moderni, più semplici, più fini, più esagerati i culo, quindi fini, pare un epiccio. Cazzo, nel Puglia non so quante cose c'erano scritte, cosa bisogna fare, cosa va via, cosa non va via. Uno specchio sembra. Cosa devo dire? Sarà grosso 3 centimetri. Cazzo, giusto, guarda lì su che vedo un epiccio qua. Tutto il quadro, ma grande, bellissimo proprio. Sembra uno specchio, non pare manco un televisore. E pare un po' di cose, e lì ci buscava 1200 euro. Cazzo, ma è enorme, però un televisore così in mano io non lo prenderei mai. Perché quello va bene per una sala grande, manna, profonda, rubo un io se ti rubo di me. Ma un salone normale quanti mi raggiù, come ti mi raggiù io, è troppo male. Oh no, ma è facile, assolutamente, basta. Anche 40 pollici, va, in sala, vabbè, anche più mano di 40 non vede male, capito? Devi sapere che chi dà distanza, ma pure vede bene il quadro, capire la persona. No, infatti, assolutamente, io ripeto, chi su da 32, la via in sala. Me la giocavate, me la giocavate in cucina, per chi sa, la vedi male, tu vedi male, poi così la bello per com'è, ecco così va per com'è. Allora, in sala la giocavate da 26 pollici, sempre sciarpa, capito? A Chinnaggio, lui sciarpa, uno Samsung e uno LG, Naggio, si può immaginare, però chi si ama funzionare bene, da chi, so che accolto io. E il campagna pure un villaggio su digitale, su vini, salzuri. Però vanno una cosa pura, va, capito? Per cui sono i primi i suicidi e via esternamento da cose. Per dirti, ne ho visto un bel da Conforama, cosa di vici, quello del cosa esterno, cazzo a 250 euro, sì, pure di meno ne ho visto quelli piccoli, però c'hanno sempre le cose esterno, la grande 122 euro uno, era 20 mezzamai, però il decore era esterno, anche che cazzo dice, non lo vorrei. Vado del cosa esterno, devi stare sempre con il cimpriato attaccato. Quelli sono quelli di adesso che ce l'hanno incorporato e ciucciugato, pone giù un televisore, adesso rubi un televisore di l'antenna e buh. E che ci faccio? Io non penso così, mi hanno incorporato tutti i cazzi. Capito, grazie. È solo che dovecci qui faccio con lo Radio Marelli, chi su quella esterno, no? Quella, ma chi si vegetare villaggio tutti incorporati, capito, no? È una rottura, Emmy. È una rottura perché c'è, però secondo me chi su Marelli e l'hanno usato un po' che niente, l'ho usato solo quello di Vudì. Capito? E per cui non la sento quasi mai. Qui c'è da tutto quanto, verranno tutti incorporati, per cui sono tranquillo, capito? Ma ormai così, cosa ne fai che si impriati ad io fino a venire ragazza, vede un tipo, li fai di mano e sta attento a rasura e si chiama le canale con la mano, grazie. Vabbè, infatti io non me ne date ma che ci ho posizionati, perché no, per cucina avevo messo una mezzolina da sopra e non lo tocco mai. Il salone è sotto, il carrello non lo tocco mai, in cameretta è sotto, è delle pisole innate, non lo tocco mai. Mi figlio l'aveva innata la mensola. E io che, ce n'era anche uno nuovo, di scorta, dentro la cattola, arrivato il resto al soppato. Se ci faccia da credo un miracolo. A noi purtroppo mi piace la cosa moderna, grazie. Visto più canali, le belle più bea che sono quattro più manni. Tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Per cui c'è più azzurro e trappe mobiliate, va. Per cui andare. Perché a uno quando va che si prima, l'importante funziona già bene da voi, quando si qua c'è bile, di rapi e c'è bile moderno, qua c'è una cazzata, qua c'è una cazzata, cazzo di 100 euro da 20 di pollici, cazzo io. Già lo so quando mi si romperà quello del salone che lì lo voglio un poco più manno di chi di cucina, dammi lo video, ma mica mi sarà pure delle visioni, ma pigliammi lo a schermo piano. Allora che si faccia mi ricambo. E cucina di andare vecchi in cameretta, andare a te, sono nuovi, e poi si vede bene da me. Ho due antenne anche piazzate io, non è una, no, ne ho due dal televisore. Io non ho giudito la televisore, la centralizzata. La centralizzata è chissà di cucina, chissà di sala, quella della sala. Dopo c'è un'altra che funziona questa che sono in questa cameretta, e quella che c'è in camera mia. Capito? In camera mia, con l'altra antenna, capito? Due antenne c'ho anch'io, capito? Quando fa tutto un giro di rivini, così e là, a un punto di affare c'ha la antenna e mi funziona due televisioni di roghe e due la antenna, capito? Sei un'antenna per i canali secondi, no, la di tutti due, una gira da poca destra e l'altra gira da poca sinistra, e due pannelli per prendere più bene, capito? E dunque, io ci vedi bene da me, no, ma proprio malissimo. Quando sarà io che si faccia, che ci sono salone, me lo compro, da poi mano a mano, se si faccia di chicchi, già me la va già via, ma per il momento funziona, ne vedi, io li vengo qui, andare bene, no, non essendo su di così. Sì, se figuriasi. C'ho anche due paraboli io, mi grazia. C'ho anche d'accordo parabola satellitare anche io, Prima ne avevo una motorizzata come quella di Luna Rossa, già l'hai vista. Quella l'ha presa, dopo di me l'ha presa, l'ha fatta a prendere io, siamo andati insieme. Motorizzata E poi c'ho anche l'altro, il zeccone ci viene ancora, quella grande da 1,5 metri di parabola l'ho dovuta demolire e l'avevo regalata a coso a Manuele, quel Manuele CB, abitava lì a Monte Bianchino. L'ho smontata e siccome era analogica quella lì, questi canali ce n'erano poco e niente, e allora ho dovuto togliere un po' perché potevo cambiare l'illuminatore e la potevo usare ugualmente con motorino, avevo avuto più canale, ma ho dovuto smontarla e l'ho data a Manuele e mi sono piazzato la parabola più piccola da 80 e da cosa ci va ancora? Ah, non accendo mai perché che qua è a Puglia Canale, capito? C'erano due parabole, ti puoi immaginare, e se ne vai? Venuta, io non me l'avevo mai pigliato parabola, ora me ne faccio, ma Vittorio mi pare che non c'ha neanche più la parabola sul tetto, boh, non ci ho fatto caso, ma mi pare che non l'abbia più visto. No, la parabola c'era, la parabola c'è ancora piazzata, l'ho vista anche quando è, avanti, mi sembra che l'ho vista, no, la parabola c'era ancora piazzata, io l'ho dovuto demolire il pezzo, l'ho piazzato quella piccola, ma lui ce l'ha sempre la parabola, adesso non so se c'è ancora il decodere analogico oppure se ce l'ha preso digitale. Io non ho voluto, no, ho detto, mi piglio quella piccolina motorizzata, non ne voglio più, capito? Perché quando camminava lo motorino incendia la notte, faceva un rumore, pareva una nave camminando in Baria, quando chiamava un canale da un canale all'altro, capito? E per cui l'ho dovuta eliminare per quello, no, no, poi non c'era più nulla analogico, vabbè, adesso sono tutti digitali, che anche su decodere non valgono più, capito? Uno l'ho regalato anche a Pomponio, decodere, si può immaginare, e ne ho altri due che se vuoi accendo qualche canale c'è ancora all'estero, e qualche canale italiano pure c'è, però sono analogici, capito? Non mi interessa, mentre prima invece c'era tutto il mondo, c'era li pigliavo da una parte fino all'altra parte, grazie a tutto, c'era fino alla bocca un capito da canale o satellite, c'era parecchio, per cui pigliavo tutto quanto io, perché era 120 la parabola, capito? E come quella c'è Vittorio? Già l'ho vista in casa di Vittorio, funzionando quella parabola col televisore. Il televisore l'aveva accompagnato io a un palazzino, lì vicino al mercato all'ingrosso, alla Vercini. Lì non me lo ricordo chi era quel negozio lì. L'aveva preso lì, l'aveva accompagnato io, l'aveva comprato il televisore. A Manconi. Ma ancora, invece la parabola l'avevo presa da Grassi noi, sì, la parabola l'avevo presa da Grassi, con decodere, tutto Grassi c'era dato, capito? Cata, 3,5 milioni l'abbiamo impagata, e c'è io che vedo, la parabola motorizzata con decodere, allora, 3,5 milioni, cata, a chi fai la parabola, guarda tu. La tribide vira, capito? Poi ha giubilato un secchio di due secchi di cambio, l'ha giubilato e tra giubbotti e mezzo la tribide e la giubilata di cantone e cose, e io ho rifatto ghiaia, mi hanno muovito male, ragazzi, mi ripigliava 20 questa parabola a me, però non è muovitivo, e l'ha rilassata ancora chissà. E che la tocca vivo ormai. E la faccio molto questa minore la parabola, capito? Anche quella di Vittorio, già è mezza piazzata, già me la metto. Ma cazzo, hai visto quanti di inaccettati, pure Vittorio, quel televisore abbigliato l'abbiamo pagato un bel, là, quando l'ha comparato, e pure la parabola già lo sappiamo, l'abbiamo messo un bel di luce, ma cazzo, che va nulla, ma chi c'ha della tratta in del burro? Ma no, non credo, non credo, ma chi, si sa comprare un decoro digitale, la parabola va bene, ma l'illuminatore funziona benissimo, però non credo la trattenne, non lo so, la parabola c'è ancora. L'illuminatore mi sembra sia lo stesso, quello che c'era prima, perché io da giù si vede. Ed era preciso al mio, precise. Da 120, che è preciso al mio, non c'è cosa fa. È un benzinato, un bagata, dai, ma anzi, Popone mi aveva detto di qualche bonus là, di fare un pregio buono, e mi ha portato la grassi. Dai, che mangi il trubrico, la musica di grassi, che mi ha fatto un raio. Ecco, no, non la prendo, no. E dice che la faccio pagare poco a poco, no. Mi leggo qui tutto, stai in occhio e mia moglie mi ha detto, non la prendo, no, così. Ma ha dato il ragazzo, guarda la giubilata, io il pompone, io mi, che la pompone andrà a giubilata, 3 milioni e mezzo. Oh, io non avevo pagato, cazzo 3 milioni e mezzo, oh no. Cazzo, così è esagerato, via. Ma io lo vedo mettere in fiamme, però per tutto il mondo, allora c'era tutto il mondo, tutti i tipi di via, c'era di tutto, e più ci aveva regalato la scheda gratuita, costava 50.000 lire allora la scheda, e c'era tutti i film, la macchia triste, di tutti i tipi, grazie a di tutti i tipi, la voce siamo stufati, boh, push, boh, non era mai subito. Perché stanno così poi, tutte rumoramente, da poi si tratta e non ne tratti più, come tutte le cose, là. Sono mesi a ricomincio, vado da poi ti ne parli, non ne guardi più, non ne tratti più, così, ma è la vittiglia, tanto ci fanno un costo, tanto di là stai da basso, cazzo la vittiglia di tutta la sì, la verità. Anche a me la giocava con la sensazione, però. Tanto, da che dai, Chiara, cosa ne fai? Cosa ne fai? Non ti manca niente. A me non mi manca niente, di là. Di là. Certo, ormai lì ci sono, non devi più calcolare. Mi ha giocato la stazione, perché io sono tutti pulissimi, mi piace una cosa, tanto me la compreggio, sempre se la possibilità. Ma è una cosa, se lo fate di là, porto i sacrifici, e Dio gli resti domani, mi bocca la pasta, quando la me la compreggio. Non a ratti e i contanti, capito? Però me la giocava dalla stazione, io sono per esempio così, quando mi piace una cosa, tanto me la compreggio. Grazie a te, faccio tutto, e mi ha solo la salute, buono, non va a casa. Per cui, ho dato a mangiare, fravemo, cricchia e cocco, e tiriamo a campare, e cosa vuoi di più? Ah, che si è vero, a me non mi attesse, non mi manca nulla, ma cosa, no, per dire, mi piace a chi duretto, moderno, che brava, che alza, sotto a cacciatone, da quando se me l'ha occupato. Poi l'armadio, l'ho visto con le altre scorribili, mi è piaciuto, lo fanno del miraggio pigliato. E chi dice la giocavate? No, quando una cosa che mi interessa già li spende su, e me la giocavate in contatto, già l'urete che l'armadio. Quando vanno mutato la cosa già me la piglio. No, il moderno, l'armadio, con le altre scorribili, non sai chi apri l'armadio, rimane la buchetta in mezzo ai piedi, invece lui sta scorribile, poi basta pure in due, ed è migliore, là, c'è più posto, anche il letto, sotto invece da sì. Biotto, vai un cazzettone, sotto chi mi si basa pure baletta tutti. Adesso ci ha messo più muri estivi con le lenzuola, quando è cominciato a ciambarli, ma non vanno di più muri, altro li lavo alle punti a quel lavaggio espresso. E sotto, Bucchelli, lì uno di Chiti, due di Chiti e poi lì uno di Chiti Invernali, pulito e tutto, tratta la busca, ed è un bel comodo. E la giuccia, cambiamo per figura, poco di pari su, che sul letto di San Mario, sì, la giuccia, e a me pure mi piace. Ah, l'ho fatto la bocciata, avevo lì, ma io c'era la macchina, sì, a Sarapo c'era la bambina che faccio, anche dopo ancora che me l'avevo fatto, avevo la mangia a bocca a Cagliari io, avevo preso un montone di là, per cui ancora è buona, non ha voluto bigliare, se no mi piace la buruista a me, per cui non ho... Non è tanto, fa baci buro che oggi domani che si desidera. Avevo compilato la cucina e per cui c'era la cucina completa, per cui chi sarà compilato? Fa baci buro oggi domani, certo se abbiamo avuto la camera a letto, visto che c'è da me, visto vai tu, ma stessi, con volante e scorrevole, sei con un letto chi altro para. È bello, sappiamo per figura che la salita il paese la giubicchia e qui la cofforama uguale a quello mio adesso lo sai quanto costa neanche 500 euro io ho pagato 500 euro e l'armadio costava 900 ma ho detto venga domani per l'armadio che ci sono le ribasse sono andato di domani e ho pagato 600 euro la di prima ha giubilato l'uretto e la di domani ha giubilato l'armato come ti ha detto visto però cazzo diventa l'uretto sotto i chivi mi sento un bel roba ma un bel avviso e l'armato invece da me che trova ragione che va via pensa la povera che ti pigliava il cuore ti raccoppava e questo era tre ante e ci sta con la cassettiera perché non c'è in esposizione, se la puoi te la parte con tre cassettini. Mi ho preso l'armadio, la cassettiera, 50 euro quella l'ho pagata, abbinata all'armadio, l'ho messa in mezzo, dentro, e lì ci metto i calzini e le mutande, un calaccio di bavette e due isoli lì. Però tutti più muri va via dentro l'armadio, il lato armadio insaccato, tutti che mi copiava dentro l'armadio alla lì. Sono tutti sotto al ruretto dentro il contenitore. E andava. Io non so che va benissimo. Che per i salmati come io, la chiamo una torretta qui. Tu stai spada a tenere, decida due voci, decida a potenza i sacchetti. Capito? E non è ancora così. I cacchiloghi a becchi muro ancora, però parlerà da sempre le cose mentre so può darsi domani. E carità. Pregami per la salute da voi un ricco che deve essere piano piano. Ogni tanto a che cosa non manca, forse per la fattrice pure andare un po' male, così che è capace magari a voi se ci muro la fattrice nuova. E beh, ma mi cognata che la cuppa la Zanuga è andata da Ivi da Cottorama, mi pare la pagata quasi 500 euro, però l'ho piazzata in casa, sotto in cucina, c'aveva la bastoviglia, siccome se non ne trattava della lampada del saggio bussù, la patricina. E andava è un bombo, ma con la antenne, e là va così bene, chi da via prima pareva molto picco, da pure il bagno, capo si scia all'ingresso, camminava la giura. La pilota è andata, la già spagnata è, si era comparata, si era fatta ricca e via di piazzata. Ma va di busto un quarto d'ora, entrassi là sotto, a sballare, a bucarne il bullone dall'aria e si attacca lì giù. A conviene, quando fanno quei ribassi a Cofforama delle camere da letto. E così non ti vede, secondo la camera da letto è come se era mia, ti viene neanche 1.000 euro. Non so quanto è la pagata mia figlia. non so quanto era pagata, ma è bella, è veramente bella, e l'ho vista, certo. Ma lui c'è stato un bel di cosa sotto, un bel di cosa, e la radio che si è staccato, non li sa chi così, e sono staccati con questi, e le domande eccetera, è piccato, è stato di bene, le cucine, tutti di buone, le soli, è bello, perché l'ho visto, grazie, è bellissimo, è molto comodo, ecco, però parava, dai, non va ancora la nocciola. Il mio è con la spalliera con noce e le coppelle, lì basta ritrasse lucida lucida, dopo un minuto ed è già pulita la camera da letto. Invece l'armadio c'ha i bordi, le striscette, il legno con noce come il letto e gli sportelli amaranto con le bacchettine e tre strisce che ogni sportello ci sono. E poi ci sono gli spazzolini e negli sportelli fanno passare la polvere. Fino a così c'è un bel bel giure. E poi un sacco comodo. E direi che una manta in caso di farsi freddo, ma non attacchissimo lì. E la bevita si tira da capanni con la roba piccata. E quella cassettiera dentro ci sono calze e mutande. E sa comodo, sa comodo. Sono moderna, per cui sono bello, sono bellissimo. Ma io sto a giudizio se è migliore, è bellissimo. Sì, vabbè. Piano piano, grazie. Vengamo già saluti. Mi paletta, una volta dormita, già si va. Io ho tutti i buchi della roba che va. La puglia tutti vicino al uomo. Nata le bannelle, ha diviso due bannelle masonite e poverate. E lava con il frazzo, e da voi la racciutta, si vuole dorare i bannelli, sono leggeri, e si va sentato con la roba, sarra e tutto fatto. E una volta al mese lo fa, a chi sotto lo ruggiano per basta, la va compreso, va a passare il frazzo. Allora è stato fatto una volta a Romiglio, ma quando l'altra è pulito, poi a questo punto un poco di lanetta, perché magari come un timone, no, si vola. E la lanetta è sempre esistita, per cui poco poco entra, capito? Poco poco entra, per cui ogni stato si lo fa, già la c'è sempre, capito? Per cui è una cosa un po' pulita, un po' pulita, ma senza, se non la buri per sempre, spesso una voce che la buri per queste, non lasciate, lascia poco e niente, per cui la cosa rimane sempre pulita. Una ragazza, no, che cosa dite ragazzi, ma una volta al mese lo fa a me, non glielo faccio mia vita, una volta al mese, ma fare una volta al mese è abbastanza pulito, capito? Perché il bastone che ho sotto non ci passa. Allora, a parte così, la giugiuta che buca, a bucare le bucce, no? Le buca le bannette, si sentono così, chi lava in terra, lava i ghiri. E dopo la asciutta in terra, quando è asciutto, si muore d'ora tutta buca. E andava. Io mi ho preso l'armadio e il letto, il comò no, mi ho tenuto il comò mio perché è antico, lo specchio lo stesso è antico, cazzo, ci sono giocato un sacco di denaro che è antico, e i comodini mi manco, cazzo che si vanno tre caracce, lo ripiano e un biuzzo, gli hanno dato due anni i comodini così, e mi raggiunto, però sono abbinati a che color noce. E andava, beh, chiaro di abbinare la cosa, è giusto che sia così, va bene, grazie a voi, avremo già la metà, dai, più e meno, se Dio vuole a domani, adesso chiudo, grazie, mi sembra, capi, più di un'ora e mezzo mi sembra, grazie, e per cui... Adesso abbiamo fatto la chiacchieratina, va. A domani, grazie, grazie a chiacchierata, saluta in casa e ci sentiamo domani se Dio vuole. Ok? Ciao Gio Mario. buon proseguimento di serata, salutoni a tua moglie in casa, a domani, ciao. Ok, ciao.